Certi intelletti che amano il mistero si compiacciono di credere che gli oggetti conservino qualcosa negli occhi che li guardano, che i monumenti e i quadri ci appaiano soltanto sotto il velo sensibile tessuto durante i secoli dall'amore e dalla contemplazione di tanti adoratori. Questa illusione diventerebbe vera se la si trasponesse nell'ambito della sola realtà propria a ciascuno, nell'ambito della sensibilità personale. Sì, in questo senso soltanto, ma è un senso ben più vasto. Una cosa che abbiamo guardata un tempo ci riporta, se la rivediamo, assieme allo sguardo che vi abbiamo posato, tutte le immagini di cui esso era colmo allora. Il fatto è che le cose, un libro sotto la sua copertina rossa, come tante altre, diventano in noi, non appena noi le percepiamo, qualcosa di immateriale, della stessa natura di tutte le nostre preoccupazioni o sensazioni di quel tempo, e si mescolano ad esse indissolubilmente. Quel certo nome letto un giorno in un libro contiene fra le sue sillabe il vento impetuoso e il sole brillante che c'erano quando lo leggevamo. Così la letteratura, che s'accontenta di descrivere le cose, di darne appena un miserabile rilievo di linee e di superfici, è, pur chiamandosi realista, la più lontana dalla realtà, quella che più ci impoverisce e ci rattrista, perché interrompe bruscamente ogni comunicazione del nostro io presente con il passato, di cui le cose serbavano l'essenza, e con il futuro, dove ci incitano a goderne nuovamente. E questa essenza, che un'arte degna di tale nome deve esprimere, e se fallisce, dalla sua impotenza si può ancora trarre un insegnamento, mentre non se ne può trarre alcuno dalle riuscite del realismo, e cioè che si tratta di un'essenza parzialmente soggettiva e incomunicabile. C'è di più. Una cosa che abbiamo vista in un certo periodo, un libro che abbiamo letto, non restano uniti per sempre soltanto a ciò che c'era intorno a noi, ma anche, fedelmente, a ciò che noi eravamo allora. Non possono essere risentiti, ripensati, che attraverso la sensibilità, il pensiero, la persona che eravamo allora. Se io riprendo dalla libreria François Le Champy, sorge immediatamente in me un bambino che prende il mio posto. Lui solo ha il diritto di leggere quel titolo, François Le Champy, e lo legge come l'ha letto allora, con la stessa impressione del tempo che faceva in giardino, gli stessi sogni sui paesi e sulla vita che erano allora i suoi, la stessa angoscia del domani. Se rivedo qualcosa d'un altro periodo, a sorgere sarà un giovane uomo, e la mia persona di oggi non è che una cava abbandonata, che crede che tutto ciò che essa contiene sia uguale e monotono, ma dalla quale ogni ricordo trae, come uno scultore di genio, statue innumerevoli. Dico ogni cosa che rivediamo, perché i libri in questo si comportano come cose, il modo in cui il loro dorso s'apriva, la grana della loro carta, può aver serbato in sé un ricordo del modo in cui io immaginavo allora Venezia e del mio desiderio d'andarci, un desiderio vivo quanto le frasi stesse dei libri, più vivo, anzi, perché queste, a volte, sono d'impaccio, così come davanti a certe fotografie d'una persona ci si ricorda di lei meno bene che limitandosi a pensarci. Certo, per molti libri della mia infanzia e anche, ahimè, per certi libri di Bergot, se mi capita di prenderli in mano in una sera di stanchezza, è soltanto come se prendessi un treno nella speranza di riposarmi con la vista di cose diverse e respirando l'atmosfera d'una volta. Ma può succedere che questa evocazione voluta venga invece intralciata dalla lettura prolungata del libro. Ce n'è uno di Bergot che nella biblioteca del principe recava una dedica ad una piaggeria ed una banalità inconcepibili. letto un lontano giorno d'inverno in cui ero nell'impossibilità di vedere Gilbert, nel quale non riesco a ritrovare le frasi che tanto amavo. Certe frasi vorrebbero farmi credere d'essere quelle, ma non può essere vero. Dove sarebbe dunque la bellezza che trovavo in esse? Ma dal volume in quanto tale, la neve che ricopriva i Champs-Élysées il giorno in cui l'ho letto non è stata tolta. La vedo ancora. Ed è per questo che se avessi avuto la tentazione d'essere bibliofilo, come lo era il principe di Guermantes, lo sarei stato in un modo affatto particolare, senza peraltro che la bellezza, indipendente dal valore intrinseco del libro, legata per gli amatori al fatto di conoscere le biblioteche per le quali il libro è passato, di sapere che fu donato da quel tale sovrano, in occasione di quel tale avvenimento, a un uomo famoso, d'averlo seguito di vendita in vendita attraverso tutta la sua vita, senza che tale bellezza, per così dire storica, del libro andasse per me perduta. Ma era piuttosto nella storia della mia propria vita, ossia non da semplice curioso, che l'avrei trovata, e collegandola più spesso che all'esemplare materiale all'opera, come a quel François Le Champy contemplato per la prima volta nella mia cameretta di Combray, durante la notte più dolce e più triste forse della mia vita, quando avevo, ahimè, in un periodo in cui i misteriosi Guermantes mi sembravano tanto inaccessibili, ottenuto dai miei genitori una prima abdicazione dalla quale potevo far datare il declino della mia salute e della mia volontà. La mia rinuncia ogni giorno più grave a un compito difficile è ritrovata oggi nella biblioteca dei Guermantes, proprio sotto la luce migliore, che metteva improvvisamente in chiaro non solo i vecchi tentativi del mio pensiero, ma il fine stesso della mia vita e, forse, dell'arte. Sarei stato d'altronde capace di interessarmi in un'accezione viva anche ai singoli esemplari dei libri. Una prima edizione mi sarebbe stata più preziosa delle altre, ma intendendo per tale l'edizione in cui avessi letto un'opera per la prima volta. Avrei cercato le edizioni originali, cioè quelle in cui avessi avuto di quel libro un'impressione originale. Le impressioni successive, infatti, non lo sono più. Avrei collezionato dei romanzi, le rilegature d'un tempo, voglio dire del tempo in cui avevo letto i miei primi romanzi e che tante volte avevano sentito mio padre dirmi «sta dritto». Come il vestito nel quale abbiamo visto una donna per la prima volta, esse mi avrebbero aiutato a ritrovare l'amore che provavo allora, la bellezza, cui ho sovrapposto troppe immagini via via meno amate per poter ritrovare la prima, io, che non sono l'io che l'ha vista e che devo lasciare il posto all'io che ero allora, se questi invoca la cosa che conobbe e che il mio io di oggi non conosce, ma nemmeno in questo senso. Il solo per me concepibile. Sarei tentato dalla bibliofilia. So troppo bene quanto le cose siano porose allo spirito e se ne imbevano. La biblioteca, che così mi sarei composta, avrebbe avuto un valore persino maggiore, giacché i libri letti un tempo a Combray, a Venezia, arricchiti ora dalla memoria con grandi miniature raffiguranti la chiesa di Saint-Hilaire, la gondola ormeggiata ai piedi di San Giorgio Maggiore sul canal grande incrostato di scintillanti zaffiri, sarebbero diventati degni di quei libri illustrati, bibbie istoriate, libri d'ore che il collezionista non apre mai per leggere il testo, bensì per estasiarsi una volta di più dei colori che vi ha aggiunti qualche emulo di Fouquet e che fanno tutto il pregio del volume. E tuttavia, persino aprire quei libri letti un tempo al solo scopo di guardare le immagini che allora non li ornavano, mi sembrerebbe così pericoloso che nemmeno in questo senso, il solo per me concepibile, sarei tentato dalla bibliofilia. So troppo bene quanto facilmente queste immagini lasciate dalla mente vengano dalla mente cancellate. Alle vecchie ne sostituisce di nuove, che non hanno più lo stesso potere di resurrezione. E io, se avessi ancora il François Le Champy tirato fuori dalla mamma una sera dal pacchetto dei libri che la nonna doveva regalarmi per la mia festa, non lo guarderei mai. Avrei troppa paura di inserirvi a poco le mie impressioni di oggi, sino a ricoprirne completamente quelle d'allora. Avrei troppa paura di vederlo diventare a tal punto una cosa del presente, che quando gli chiedessi di suscitare ancora una volta il bambino che ne decifrò il titolo nella cameretta di Combray, il bambino, non riconoscendone l'accento, non risponderebbe più al suo richiamo e resterebbe sepolto per sempre nell'oblio. Come quella di un'arte patriottica, l'idea di un'arte popolare mi sembrava, ammesso che non fosse pericolosa, ridicola. Se si trattava di renderla accessibile al popolo, sacrificando le raffinatezze della forma, buone per gli sfaccendati, avevo frequentato abbastanza le persone di mondo per sapere che i veri illetterati sono loro e non gli operai elettricisti. Da questo punto di vista, un'arte popolare, sotto il profilo della forma, dovrebbe essere destinata ai membri del Jockey Club, più che a quelli della Confederazione Generale del Lavoro. Quanto agli argomenti, i romanzi popolari annoiano la gente del popolo esattamente come i libri scritti per i bambini annoiano i bambini. Si cerca, leggendo, di spaesarsi. E gli operai sono curiosi dei principi quanto i principi degli operai. Fin dall'inizio della guerra, Barré aveva detto che l'artista, nella fattispecie Tiziano, deve, prima d'ogni altra cosa, servire la gloria della patria, ma non può servirla che essendo artista, cioè a condizione, quando studia leggi, compie esperienze, fa scoperte non meno delicate di quelle della scienza, di non pensare ad altro, fosse anche la patria, che alla verità che gli sta davanti. Non facciamo come i rivoluzionari che per civismo disprezzavano, se non le distruggevano, le opere di Watteau e di Latour, pittori che onorano la Francia più di tutti quelli della rivoluzione. L'anatomia non è, forse, ciò che un cuore tenero sceglierebbe, se ci fosse possibilità di scelta. Non è stata la bontà del suo cuore virtuoso, che era grandissima, a far scrivere a Chauderlot de Laclos Les Liaisons Dangereux, né la propensione per la piccola o grande borghesia a far scegliere a Flaubert come argomenti quelli di Madame Bovary e dell'Education Sentimentale. L'arte di un'epoca di fretta, secondo alcuni, sarebbe concisa, così come prima della guerra c'era chi ne prediceva la brevità. Allo stesso modo, la ferrovia doveva uccidere la contemplazione. Era vano rimpiangere il tempo delle diligenze, ma l'automobile ne fa le veci e fa sostare di nuovo i turisti nei pressi delle chiese abbandonate.